schifo, eh. Vabbè, ma non sei mesi, meglio quello che tre mesi. Appunto, dico, ma mi sembra così mesi che voleva qua, no? No, tre mesi invece. Che schifo, eh. Sto luciando perché con quello che ho ritrovato mi sto divertendo. Adesso vi ho messo tutta la roba che non mi serve a nulla. E che, cosa? La rubrica. Mannaggia. Oh Luca! Servizio temporaneamente inutilizzato, anche te. Disponibile. Stavo cambiando il server, c'è scritto. Un riscrimondo IK1231 server etmediscalit port 80. Ma parli da tua mail di discali? Eia. Capito. Ma ci sono dei problemi qua. Saranno dei problemi, capito mi hai? Io penso che non ti avranno problemi, a quanto ho sentito, tra l'altro solo vuole mollare, ha messo un sacco di gente in cassa integrazione, tanto non mi rompere il coglione a me, io gli ho pagato la fattura, a chi se no ho fatto un casino di Gesù Cristo, Cazzo via, non mi fa leggere le mie, cazzo, vuole avermi la posta elettronica. Servizio momentaneamente no grazie perfetto Apache ragazzo Gio indiano Apache 80 ragazzo indiano Gio ragazzo indiano ragazzo scritto Apache 2.2.21 Unix Mode Yankee Kilo 1231 serve mail disca di T port 80 cazzo 80 paci viso attenzione alla guerra ma sono dei sceriffi Claudie me lo chiedo sceriffo Edo la massa che ne rimaria se non lo fate subito le server delle mail cazzo me li culo questi oi. Ah ecco, per program, all capacity programs, dici, again, little Tony, che cazzo è? Vabbè, comunque in pratica mi sta dicendo che il server è temporaneamente inutilizzabile, requisite, giusto? Ah, per manutenzione, è possibile, possible problems, ok, va bene. Please, again, affidare ancora, facciamo un evento, salutami lo sceriffo. Questo è lui, salutami lo sceriffo, pace. E per quello adesso ho detto, là, ci vogliono i sceriffi, e ci mancano anche i cavalli adesso. Cazzo di là, però andiamo a rompere le palle. Alle 8:30 di sera a disinserire il server per problemi. Se hanno i problemi si compareggia, non quale ma quel letto, ragazzo me la butta a me. Attento, molto pompa! Papà, sarà qua, c'è stato come di bianco, cioè, deve essere già arrivato almeno come minimo. Attento, Conan, chi sei? Sulla parola ci sto dicendo che c'è Sandro Cona con la moglie in macchina, perdonami Sandro, mi stavo ordinando con Tiscali, mi copi Sandro? Ehi, io non provo a andare direttamente sul sito mail.tiscali.it, metti la moto in tempo sulla mente online. Ma sono entrato, la pagina di Tiscali me la dà, www.tiscali.it, entrare direttamente nelle mail di Tiscali, ma mi dà portale 80. Dove vado io in questo portale 80? Il portale email di Tiscali e mi dice Tiscali 503 server temporaneamente inutilizzabile in inglese, e mi dice anche perché per manutenzione dosi time, quindi senza orario, è over cache problems, quindi sicuramente hanno problemi al server e stanno utilizzando il portale 80. Infatti mi dice qua Unix modello, quindi modello unico per andare a vedere 1.2.31 server at mail Tiscali i.it port 80, e poi c'è scritto Apache 2.2.21 Unix mod. Va bene che va bene, ok. accenderò domani, vediamo cosa mi dice, se no chiamo a 130, a 160 e le mando a cagare. Oggi compreso, se mi dico che è rosa, le luci si è tomato gli esami. Non ho capito questo, no? Questo più paghi e più ti tratta un calcino in culo. Va bene, Sandro, dove sei arrivato? Ti dà un bacio in bocca, se stavolta fate l'amore quando vieni, ti dà qualcosa, anche da un queste cose sono fai, caro. Ah, ma tu dimmi una cerigaretta americano. E cui? Io credo, dare una cerigata, se no cazzo mi sono se ne andava a vedere uno. Io sono a 100 watt, devo spegnere tutto e attaccare la bestiolina, ve la do io la ceringata, adesso non serve che c'è un canale. Brutto che mi è morto, cornuto che non sia altro. Appiccite, tamara, pulita, fugata, bagno, cane morto. Ecco. Avanti. Sera, qualcosa qua, corsia Sassari. Mamma mia, chi se ne rende conto di comune, mi? Diavolo. Buonasera a tutta la rotella, conto di comune oggi mi tocca. E mi che due venari, però oggi, mi lo deve cominciare da Francesco, mi. Non so, come la cosa di oggi, uno ha già preso i sentimenti. Massimiliano, quando si lavora così, di e notte, non venuto da vanno. Non c'è niente da fare, ti capisco, io al mese di agosto prendevo lunedì per il venerdì, la domenica per il lunedì, anch'io sempre da valente, quindi, cosa ti devo dire? Dai, non ti preoccupare, che in banca vedrai che ti aumenta il conticino. Sì, e se non le volte di cuore la faccia. Sì, i clienti un bel travaglio e pochi soldi, Massimiliano, come tutti, non sei da solo. Io invece di aumentare sono sempre parenti di stipendio, figurati, travagliando come tre negri, ma sono soddisfatto che c'è il lavoro là. In questi tempi bisogna essere sempre soddisfatti con il lavoro, anche se i soldi sono pochi, se la vita è in culo, cosa devi fare? Avanti, Giuseppe! Eia, buonasera a tutti, dal sindaco di Plonaghe, a te Massimiliano Bulldozze, ti do la mia benedizione. Ho fatto un rosario. Ah, forse non hai con i baracui, ma Giuseppe, ti ho detto di mollarlo a quello, mollalo che se no ti contagia, cara. Vabbè, volevo fare una battuta così, cra, giusto per... questo è il canale dei VIP, caro Massimiliano. Se non ci sono i VIP, vi sono i baranguri. Attenzione, l'uomo più veloce del mondo, dove sei? saluto. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano Prosimine, mi raccomando, mangia poco, che domani non è sabato, capito? Te lo dico, non so come Marco Gabriele, guarda, Giovedì, dai, ci siamo quasi, giovedì. Comunque ti annuncio che la ghetta entra, mi porto una ghetta di ferie alla faccia tua. No, quando vedo questo cavallo mi porto lui. Vabbè, io me ne lascio una ghetta, così ce l'avremo in coppia. No, verità. Ciao, ma ci vediamo, un abbraccio per te, famiglia, buon carico, buon tutto. E ci riascoltiamo alle prossimine. Vai, motopompa. Signori, un attimo di quelli che si va a casa, è capito, e riprendo dopo se coincide, dai, ok, ritengo che partenia, dai. Non ti preoccupare, Giuseppe, già coincide tutto, vai tranquillo a mangiare, mangia piano, lento, anche se no da voi che tu ti senti male e muori, capito? Io mi tocco il cugliolo, non è assomigliare al canto del sindaco di Ploaghe. No, non è amico mio, non è amico tuo, io visto. No, è amico vostro, che li conoscete meglio voi che io, anzi tu, Claudio, che tu che vai a fare i sopralluoghi lì delle condotte dell'acqua, tu lo conosci abbastanza bene. E lui cancello di lui vi lascio posto una lenta, intanto il mezzo cieco, così quando entra si tronca la mano a mano di cuore di un gordo e si deve muovere un capo tra la sacco della messa. Io un giorno gli ho messo la corda e la vita, prima ha detto che era cieco, allora ora ci porto una lenta, così non la vedi. E capa! Avanti vecchio! Voi pare avete un brecco? Io ho uno. Oh, sarà Gianni. Gianni, tu sì? No, non sono io, stavo ascoltando ma non sono io. Che famiglia di porcaccioni che è? Vediamo dove è andato Domenico. Domenico! Quelle cose non si dicono. La tercessione non ho pagato nulla, ho fatto molta lì, 5.000 euro, ma è una vergogna però, veramente. Per quello che dico sempre, conviene sempre intestare ai figli la casa quando si invita, perché poi ti fanno pagare la tua successione, ti mandano a cambiare idea. E io non ho fatto così. Io ci ho fatto tutto in testa per mia figlia. Avevamo dato una pagata a voi. Eccomi qua, scusatelo, ci trovo al telefono. Avanti, avanti, un clic. Senta, Gianna Nannini. Dammio. Certo Gianna Nannini. Avanti Lucrezia Borgia. Nannini. Concedi questo permesso, apri pop-up. Ma fa cultura sta pop-up. Ma tu lo accetti? Oh Gianni, tu ti scaricciai? No. Ma porca la miseria. Hanno bloccato il server delle mail per manutenzione. Ma non posso andare a fare le mail, cazzo. Ma dimmi dove sei imbecilli che. Ma dai, ti scaricca. Io ti scaricciai, sì. No, non è computer, c'è scritto in grande. In inglese che c'hanno problemi al server che quindi momentaneamente è inutilizzabile a causa di problemi di manutenzione. Tu ci hai scritto, sono abbastanza chiara la dicitura, però a me appunto a me non è mele, potevano avvisare, niente, cioè così tu dai lo server e fanno manutenzione. www.tisai.it, aspetta. No. Vabbè, non lo fa andare tutto più chiaro. Sì, è aperto il Tiscali. Ma c'è il Tiscali, C'è. La pagina di Tiscali c'è, solo un attimino. Vedi, c'è tutto. 130, aziende, mail. C'è tutto. Pagina già me la fa aprire, la pagina ce l'ho aperta io di Tiscali. E le mail che non mi fa leggere. Perché c'è il server bloccato delle mille, solo quello c'è bloccato, la pagina di Tiscali ce l'ho aperta anch'io, vado da tutte le parti, e lo so in me poco fa, stavo facendo tutto, però non sono andato a leggermi le mille, stavo digitando la password e mi è apparsa la pagina, c'è un coso che c'è scritto, se voglio andare a vedere le mille devo andare sul portale 80. Perché quello è bloccato, il server è inutilizzabile, momentaneamente è inutilizzabile, c'è scritto. E adesso come va il server qua? Aspetta un attimo, questo è ancora bloccato, arrivo subito. Via, ma non tu ti scaricciai? No, io sto usando un altro, quello che ho guardato. Se c'è il Tiscali, lo puoi guardare, se non c'è il Tiscali non te la fa aprire la pagina di mail. Cioè non, io ho Tiscali, tutto Tiscali, Tiscali voce, e quindi ho il server bloccato delle mail, chiappa chiappa. Adesso te lo guardo. Ah? Adesso te lo controllo. Va bene che va bene. Falche! Oh? Beh, che si dice, tutto bene lì, sì, tutto bene lì, quel microfono. Ma sono sì, cosa ne pensi? Cosa dici? Bene va. Neanche questo mio sto usando un baracchino con il microfono uguale. Va bene. La biglia e luci. Tanto usare una radio, usare l'altra, ma la faccio andare questa, è sempre ferma. Puoi sentire, ma che era Mauro? Eia, Mauretto. Positivo, ciao Mauretto. Ciao Francesco, ciao. Comunque Claudio, io a me me l'ha aperta il Tiscali Mille. Tiscali Mille te l'ha aperta? Cazzo, se mi fa sapere la mia che faccio rugura che sei migliore di bagassa. Guarda, io l'ho aperta adesso, perché c'ho la nome di mia moglie e questa. E me l'ha fatta aprire, se l'ho fatto prima. Aspetta che sto accendendo di nuovo il computer che l'avevo spento. Perché sto chiamando il centro di assistenza, faccio un casino e Gesù Cristo. Nordamericani. Io li sento una domanda. c'è una ricezione allucinante. Blu blu. Non è macchino, ma la stessa che c'hai. Sto Zodiac 50-24 in base. Allucinante, vediamo qua, se mi fa aprire. Se no faccio un casino, veramente. Questo Zodiac in base, questo Zodiac in base. È veramente interessante, veramente interessante, è una bellissima ricezione. Poi c'è quella colonnina davanti rotonda già. Ma lo sai come ti sento? A tutti, una cannonata, quella è colonnina di un Gamewood. E comunque anche il Galaxy ha una ricezione eccezionale. Sì, grazie di non dire che c'è una ricezione eccezionale. Vanno bene con le radio, ma questo è ancora più vecchio il Galaxy, non vedete tre canali, non va nulla, né AM, né FM, nulla va. C'è il coso dei rumori, l'orologio, un bello smitter a tre scale, fa rosmetro e wattmetro e smitter. Bello grande, non è quello vecchio, lo metto in giro con l'arco. Per il resto è tutto a K. Oi oi oi, Bobby Marley. Signori, sta con un altro per carica, dai. Sei coincido più dopo. Ciao, buona carica. Fate buona carica. Oi oi oi, oi oi oi, lo metto. Cosa vi fa male a tutti quanti? Cosa ci avete? Mal di faccia? Ma io te lo faccio vedere un giorno che ci fa male. Stiamo cantando la canzone Bobby Marley, l'amico di Luca, a me. Luca ce l'ha presentato. Grazie Bobby Alfeo. Ma la sa, sai? Non so. Luca, Bobby Marley dov'è? No, a me non mi fa entrare, no. C'è scritto servizio. Service temporariamente in variabile, che vuol dire temporaneamente fuori servizio. Poi c'è scritto in inglese, c'è scritto e voi perché non ci avete fiscali, non lo so, ma gli utenti fiscali evidentemente non li fa entrare in questo server, cosa volete lì? E a me non fate entrare, diciamo che ti dica io. Cosa mi ti dica io? Così c'è scritto qua. C'è scritto server temporaneamente in inglese. Comunque c'è scritto inutilizzato. Inutilizzabile. E ti dà anche la motivazione. Se vedi invece tu manutenzione. Low in time or the waiting problems. Beh, adesso sto entrando su Facebook e mi sta facendo entrare. Bene, se avete la pagina, tu non te l'hai fatto l'accanto con lo schiacci posta, entrare direttamente con la posta. No, io ho la pagina iniziale di Tiscali. Dalla pagina iniziale, aspetta che sto mettendo la password 62, ecco qua, io quando entro direttamente lì sulla pagina iniziale, vedi, Facebook è tutto ok, però devi non me le fare servire. Ecco qua è tutto a posto. 2. Pierangelo Loriga, Naturales Porto Torres. Ah, mia. Porto Torres e Pierangelo Loriga. Mi hanno mandato due cose di amicizia, le radiamo, che si conosco. E niente, non so cosa dirti, messaggi. Chi ha chiamato messaggi? Salvatore Milli, cazzo già, via Milli, a te la metti a Torre Saturo. Torre. E beh, ciao Barbiero, 7351, Torre Zaffiro. Cazzo se me lo ricordo. Noto Gigione. Saturo. Sì, Torre, quello di Porto Torres, Torre Milli, quello che abitava lì dove c'era l'Hotel Torres. sì, sì, lo chiamo uno che ha tagliato il post. Brutto cane morto, cosa piazza pure. Direttore Mili, Cicionica, sei il figlio di quello che lavora con l'Enel, lei già. Non è parente con Mili Alessandro? Ehi, cugino primo grado, Ah, allora ho capito chi è. Ah, non voglio aver capito. Allora, non sto parlando di Luciano Mura, questo che stanno seramente. Dice Maggio Bobo e Mirga, porca puttana, tutti da leggere, ora vado a leggere adesso. Messaggi, questo è quello di Billy, Domenica, dice, vedi cosa c'è a suo Domenica, non ci andrà lui. Invece la sua vita alle 58 ore di traffico, rispondi, Domenica non mi interessa. Già lo conosci, modulatore buon sangue, che si dice qua? Costante cavolo straniero, aggiunto Piero Lomacone, la mia Piero Lomacone, mia. C'è modulatore puro sangue già. Quello è quello che c'è baracchini modificati. Quello l'ha fatto mio, Piero. Non l'ha fatto lui, siciliano. Piero Lomacone, quello ha fatto mio baracchino. Come schiumato? Sì, schiumato, non si vuole toccare, anche quello di Mauro è così. No, no, a me schiumato mi piace. Mi è libero, si vede tutto. Ma lui ha schiumato solo dove ha fatto il lavoro lui e basta. Pensavo che mi ha schiumato tutto il baracchino. No, dove ha fatto il lavoro lui ci ha messo la schiuma. Ma si può togliere, non è un problema. Però il mio va bene, non lascio stare così che siano tutti. Perché vite che c'è? Perché molti mi ha detto Luigi che si mettevano a toccare, a fare, poi glielo ritornavano, e c'erano problemi qua e là, e allora ho adottato questo sistema. Però è mio, ti ripeto, va bene, qua non funziona più, viene a buchino e sciuma, non è un problema. No, non lo metto, non metto per una cosa dei componenti che usa, capito? Così mi ha detto Gigi. Così mi ha detto proprio Gigi, infatti hai ragione, che vuoi che ti dica? Comunque, già va bene, guarda dei preferiti, sezione, esce a vedere tiscali mail, eccolo qua, ma meglio non mi fa entrare, la massa che te ne vale è brutto, guardate, vabbè, niente. Lo guarderò domani, cosa vuoi ti dica. Va bene, che c'è rimasto qua? Giuseppe ancora ci sei, ho a mangiare si è andato. Oiga, ho già mangiato e digerito pure, Carli. Per te? No, io sto aspettando mia figlia che c'è una per mezza. Alle 10 arriva, no, allora pure la mangiamo, è cazzo di 10. Stavo già mamma, mi sono bugico alle 10. Quando arriva magna, eta. Siccome c'è 9:30, tra cambiarsi tutto, arriva qua alle 10. No, no, io mangio allora. Aiuto, dunque, invece a mangiare. È pronto, allora qua mangia, io ho già fame. Oh, raga, vi saluto, una mezz'oretta, Vado a mangiare un boccone, e poi sono di nuovo qua, cambio. Buona... è buon tutto, ci sentiamo dopo. Ciao Claudio, buona carica. Allora, grazie anche a voi, ci sentiamo dopo, passo e chiudo. Io adesso chiudo, salutoni a tutti, ci sentiamo dopo nelle prossime, ciao. Ciao, ci sentiamo. Buonasera. Ciao. Ciao Mauro, ci sentiamo tutta da presto, cambio. Sì, va bene. Avanti già. E ancora di Mauro gira forte l'apparato. Di Mauro gira forte l'apparato. Si è fatto come quello di Claudio, vuol dire che sta girando bene. Esatto. Vale già. Quello di Mauro gira forte. Gira forte, anche quello ha fatto Piero Lomacone. E uguale a quello che ho io, sono gemelli, precisi identici. Ah. Ecco, per te. Solo che lui ci parla piano piano, non è fare niente. No, se lo miglior io dice Mauro, non vedesse nulla. Usa anche poco, ecco, non è che ti usi molto. Lo usa molto, lo risponde veramente, dai. No, io mi ho detto, usa così giusto per farci delle chiacchiere. E buh, capito? Non c'è problema, mangia, ti agita bene. Ma dov'è? Che commutato radio. E così mi giro la tua parte e mi rilascio. Adesso non sono verso la finestra e c'è freddo. Vado a mangiare e ci sentiamo dopo, ragazzi. Scappa. E abbastanza. Ce n'è una roba da fare oggi? Sempre. Non volevo di l'ora di evadere da quel posto. Cappaglia. Giustamente, dopo parte delle ore di trabacco, non vedo l'ora di evadere, almeno cambiare un po' l'aria. Sto sempre girando. E cappa. Guardi che è rimasto sul canale 10. Vado a pigliarmi una bustina di Audi, o di occhi, o già. Vai. Perché lo faccia? Ho visto che mi sta venendo nuovamente mal di denti, cazzo, qua. Tutte le volte che cazzo, che mangio, che ceno, cazzo, mi si attacca cazzo dove, cazzo, il mal di denti, cazzo, che non è possibile. Attacca la dentiera, attacca. E prendi tu pomponia? Ho appena mangiato. E sto mangiando. Cosa hai mangiato? Roba buona. Il pasta. Io ho mangiato la pasta, asciutta con il ragù. Tappa, già va bene. Mi va tutto il buono. Tappa di rosso. E adesso vado a ripetere la bottina per il dente, cazzo, strano, me lo faccia passare, e anche quel dolore al braccio, cazzo, che non lo posso muovere, mi ho messo la pomata, ho già. Ma che faccio di fama? Stamattina adesso ieri notte come ho dormito male, ero tutto quanto, mi sono alzato stamattina tutto quanto, con lo storto il braccio, mi ha preso il braccio e non ce la facevo manco a muovermi. Figurati, quando hai preso freddo ieri tu, tagliando alberi. Cosa cazzo c'entra quello? Che adesso tra poco me, domenica, siamo passati a pranzo e andiamo attenti, siamo abituati a fare un caldo di corpo, a questo freddo della vita ci treppa. E bisogna stare attenti. Bisogna tutte le volte fare il ciucucù e vedere che ti scaldi. Beh. E Gianni che ti l'ha fatto. Chiamalo, Gianni, qui è Alessio. Se va addormentato adesso. Ciao Alessio. Vai. E ciao Gianni, buonasera. Avanti che te vai. Con la mano si muove parecchio, capito? E quindi adesso oggi ho messo il fine del ferro, così ho bisogno di avere. È pericoloso, non vorrei che ci arrivi qualche temporale che me ne tra in casa qualche fulmine. Se me lo dici mai, così me la porti, mi faccio una coraggio, mi metto due almeno un paio di tiranti, non ne metto di più, tanto per tenere la ferma, finché non faccio i buchi nel muro e allora la sistemo come si deve, a parte cambiare anche il palo telescopico mi fido molto io. Cioè è basso, ma però si muove parecchio questa mattina, perché è ancora da solo con la gaffa e basta. Antonio, toglielo però il fin di ferro, non devo lasciare, se no è un casino. Ah, fanculo, stavo fischiando. Sulle cuffie. No, no, toglielo Antonio, quello con le torte. Bisogna toglierglielo, perché altrimenti non va bene. Hai detto proprio bene, se c'è qualche temporale sei sempre a rischio, è meglio mettere il nero. E possibilmente, magari, se è possibile, non metterne niente. Domani guardo e te lo dico, perché non mi ricordo quanto ne ho utilizzato, ne avevo un bel po'. E l'ho usato per fare questi cambiamenti, queste cose che ho fatto sul tetto, però già dovrebbe essere avanzato qualcosa. Domani guardo che lo so. Ok, riprendete che io mi allontano, mi sto preparando, dovrebbe essere già pronto. Ci si arrivo, ci sentiamo tra 5 minuti, 10 minuti. Io va bene, ti ringrazio per il momento, allora. Ok. Avanti, Giuseppe. Gianni. Quelli sono per mangiare. Antonè. Dimmi. Cosa, non ci hai sentito? Antonio Paracura. No, non ho sentito la verità. Da stamattina non sento per niente. Tu? Dimmi. Quando mi? Cambia dove? C'è proprio di passare a casa. Ho capito, pomposo, sei detto? È che Giuseppe quando è venuto qua stamattina dovevi passare a casa mia. Non ce l'ho fatta perché stavo girando a Sassari per chiedere e niente di particolare, capito? No, non ce l'ho fatta, quella verità mi è passata anche di mente. Stavo chiedendo, ma per carità. Non lo sono immaginato, capire che Giuseppe ha comprato sempre questo per passare dei curriculum senz'altro. In quegli uffici dove c'è la dovuta legale non ci si è passato, no? No, Antonio, che per cercare? In quegli uffici dove c'è il lavoro interinale, capito? Ah, sì, sono già scritto la verità da anni. No, non c'è niente neanche lì, chiamano loro. Tu quando dai il curriculum, le tue generalità e diversi lavori che ho affrontato, loro hanno tutto sul computer e ti chiamano loro. Ma non vale niente neanche quello, è una presa per i fondelli, lascia perdere. Quante volte sono andato e anche lì no, ho chiesto in altri punti, oggi è sempre la solita risposta. No, non ce n'è, no, non ce n'è, no, non ce n'è. Ehi, quello è logico, non è venuta, cioè, a meno che non devi sostituire qualcuno, ma di più che altro bisogna avere un bel culo bisogna avere, il discorso è quello, io sono peggio di te, adesso se la faccio anche la sfortuna che quella roba lì arriva anche, vabbè, fra una settimana, fra due settimane, quello che è quando al 15, quindi adesso domani faccio fuori il monitor del computer e quel computer che gli faccio il 23. Non lo so, 60 euro se la bianco, tutti i due e basta. tanto non ne faccio niente di quella roba lì, è qui, spenta a casa e lo faccio fuori domani. Poi appena mi tiro quella roba lì, mi piglio un po' a parte, l'avevo già visto oggi, bello, nuovo luogo, e mi prendo quello. Beh, alla fine sì, no, io domani adesso vedo con un amico domani mattina su internet, il primo lavoro che c'è faccio i bagagli e parto fuori. Ma che poi sono messi male, non ho visto in quella partita che è crollata, lavoravano a 3-4 euro a ora, 6 euro, a volte anche 5, casino, anche fuori stanno, sono messi male. Ma ok, non stanno cercando qualcosa in qualche azienda così di roba meccanica, roba così. Non già c'è. L'unica è me. Adesso voglio informare e di ragione faccio il corso per avere l'installatore di pannelli solari. Stavo cercando da 10-15 persone dentro le pannelli solari, solo che ci può essere la qualifica, io con la qualifica non ce l'ho, solo se sei già entrato. Lo so, quello già è vero, no, fare la stagione invernale da qualche parte, vediamo un po', per forza lì c'è qualcosa, perché adesso inizia e dunque potrebbe essere un'occasione per andare avanti. E cosa vuoi fare altro? Io ci ho provato stamattina, ho girato un bel po' di negozi, ho girato abbastanza, senza solita risposta, non c'è, non ne abbiamo, stiamo lavorando, sono tempi brutti, quello chiaramente d'accordo, poi non ci piove per carità, ma anche a tempo, anche a giornate ho detto che non c'è nessun problema, ci ho chiesto anche stamattina a uno a vedere se mi prendevano così per una settimana gratis per diciamo intraprendere un lavoro, una settimana gratis, così poi forse c'è la possibilità di quest'altro posticino, ma almeno uno sarebbe andato diciamo pronto, detto gratis, nel processo della parola te lo faccio tutto quello che mi dici di fare, sono a tua disposizione senza un centesimo. No, mi dispiace, dice, perché non sa mai, passano i controlli e non vogliamo rischiare, un lavoro notturno e poi alla luce del sole avrei preso i piedi e me ne sarei andato, dunque la notte chi è va lì a fare dei controlli? E giustamente facendoglielo gratis, nel vero senso della parola, ho detto non voglio un centesimo, neanche quello, guarda, neanche gratis. È un casino. Lì un sacco di ex sta andando a pietra, non molti, ma solo che adesso il nero se quello che trovi come persona ti denuncia pure, adesso la parola non conviene neanche più. Prima se prendevo 50 euro per dire per installare una parabola satellitare, adesso ma con quello che puoi fare, perché secondo me trovi con quella scusa lì piglia e diremoci pure perché pure casini, perché non sei iscritto in nessun posto, ma come va con quello? Non so, adesso vediamo domani, per fortuna una soluzione bisogna trovare, se vuoi stato solo, porca miseria, tanto quanto sei al punto di andare anche a rubare, tanto. Invece neanche quello posso fare, sai, tutto lì, vediamo domani cosa ne esce fuori, vediamo un po' cosa si riesce a trovare su internet, tanto poi alla fine si viaggia tutto su internet, a quanto pare se non c'è quello non vivi, non è possibilità di niente. Vediamo un po' con quello, domani mattina a presto, alle 8:30, 9 sono a casa di questo, è che non c'era problema, lui è abbastanza bravo in queste ricerche, cose del genere, vediamo un po' cosa ne esce fuori, e l'unica soluzione è questa, non ne ho altre, l'unica soluzione è questa. Sì, quello dove che c'è lì al computer viene per adesso vedere che non bastano di fatti che devi fare la domanda e alla regione, poi la regione manda fa sapere in pratica alle aziende che c'è questa persona che fa un curriculum, una volta che scrive il suo curriculum e poi non si sa dove ti chiamano, capito? In teoria era così. questa storia, dove ci vogliono i dati, eccetera, eccetera, e così via. E poi parte sempre la domanda che ha fatto Giuseppe, in via Zara, la stessa identica domanda. Lui ha pescato il curriculum, poi è stato mandato alla regione, poi la regione lo manda alle aziende. E se proprio azienda ha bisogno anche magari di aziende che fanno formaggio o cose così, se hanno bisogno di una persona lo chiamano, capito? Lo so, ma questa è mia. Non è a letto, che non è ora ancora. Lo so, vediamo un po' di... per forza qualche soluzione bisogna trovare, si può fare lì a elemosinare, a stare lì, a chiedere, non chiedere, un sacco di promesse, un sacco di delusioni. Dunque per forza bisogna andarsi da fare, dai, cercare qualche altra soluzione. A Sassari purtroppo non c'è niente, se vuoi trovare anche a Cagliari, perché anche per Cagliari anche io ho la stessa situazione, non è rose e fiori, per dire che anche lì, anche a Nuro, qualche altra parte, può manco bastone, neanche a Telacumatore di Elena, per fare lì a controllare il gregge, o manco quello. Vediamo domani, speriamo che sia una giornata fortunata. Sì, magari per Copatore sì, che ce ne sono di aziende. Adesso la questione resta del latte che non lo vogliono pagare, non prendono più a nessuno, stanno prendendo domenici a lavorare. Io conosco due o tre di questi pastori che hanno preso i domeni per lavorare, lavorano 1200 euro al mese. Però una bomba dalle 5 del mattino sino a quella sera, dalle 5 del pomeriggio fino alle 15 verso le 8, una cosa del genere. Quindi io ti presto, ti alzi presto e poi c'hai se non ce la fai, c'è cioè in pratica due o tre ore di libertà, non di più. Avanti Giuseppe. Giuseppe. Sparite Giuseppe. L'unica cosa è, come ti ha detto Giuseppe, con me, scendere in Gaza e informarti, fare sempre fare qualche domanda di lì. Capito? Non mica in Gaza. Come questa via Zara? Che l'ho già sentito, mi sa che c'è anche il consegnato via Zara. In che punto si trova? È vicino a Alberto Vincente in pratica. E la via è una traversa di adesso non mi ricordo la via come si chiama. Comunque sotto Vincente via Tunizia, perché ho già sentito questa via Zara, perché ci ho anche consegnato, adesso proprio mi scusi il mente, sì, via Tunizia, via Tunizia, non lo so dove inizia e dove finisce, via Zara, basta, ho capito, sì, e lì quell'ufficio bisogna, che ufficio c'è lì? Qui ci sono i uffici del comune, dove ci sono gli assistenti sociali e puoi fare qualche domanda di lavoro, capito? Anche la domanda per alla regione, a te forse te la danno, ti danno 300 euro ogni mese, che tu c'hai figli, dove si fa la domanda di povertà, si chiama, poi loro, una volta che tu fai questa domanda qua, e loro la mandano giù alla regione, se ti senti l'accetto, ti danno 300 euro ogni mese. Scusami un attimo ancora, io la domanda di povertà l'ho fatta in paese, l'ho fatta, e parte e rientro, sai che cosa? O mi pagano, allora, o mi risarciscono, allora, nell'arco dell'anno 60 euro nell'arco dell'anno per la corrente elettrica. Allora, in poche parole, se io spendo a casa, spendo 65 euro di corrente elettrica, loro ogni mese ne scalano 10 sino ad arrivare a 65 euro. E poi altre agevolazioni e qualcosa per il gas o per il riscaldamento che non abbiamo, poi di altre agevolazioni di questi soldi di 800 euro, qua non ne hanno mai parlato e non ce n'è, non ne prende nessuno di questi, come dici tu, 800 euro per povertà, per figlio, non figlio, sanno che c'hanno un figlio, una figlia e le condizioni sono queste, non c'è niente, quello come stamattina, non c'è niente, punto e basta, al prossimo anno dice si iniziano i cantieri. E io non capisco per questi discorsi funzionano a Sassari, in questo paese di merda dove sono io non c'è mai niente per me, non c'è mai niente per nessuno, c'è solamente per chi vogliono loro o per i parenti che lavorano in comune, perché qua purtroppo da quando sono nato, i 37 anni, è stato sempre così. Mi sembra strano che a Sassari aiutino e qua invece non c'è nessuna, diciamo, piccola agevolazione. L'unica agevolazione poi è stata quella di che abbiamo un'agevolazione per portare nostra figlia da casa a Suspianos, perché è abbastanza lontano per lì, il pulmino. Solo quello, solo queste semplici cazzate, poi del resto non c'è altro. Poi non so se io poi rientro io, perché io sono di Ossi, a Sassari dovrei avere la residenza per avere queste agevolazioni. Ma non sono 300, sono 300. E poi quella domanda che hanno fatto a te, C1 si chiama, capito? Poi c'è la C2 come modello di domanda, che quella è una cosa diversa. Quella che hai fatto tu è quella, in pratica ti pagano le bollette della luce, del gas e cosa del genere. Quello già lo so anch'io. Poi io ho fatto la domanda, te l'ho detto, 300, io ho il sussidio in pratica, il sussidio della regione, che ti manda la regione, ogni mese ti manda 300 euro. Questo sussidio qui, ho detto, la prende gente che sta lavorando in nero, che va in macchina a pigliarsi il sussidio, commerciale e cosa del genere. Bisogna fare la domanda in piazzale, bisogna farla. Adesso quando ci vediamo ti do il foglio, così vai a Zara e dici devo fare questa domanda, come l'ha fatto il signore, perché se no l'abbiamo bocciata. Siccome io ho figli, sono sicuro che a me me la danno, perché a me me l'ha bocciata perché sono solamente in due io, figlio e carico, la mia, ho capito? Ho capito, vediamo un po' cosa ne c'è fuori. Boh, adesso vediamo domani su internet a vedere se c'è qualche possibilità. Altro sinceramente non posso fare. Eccomi qua, buonasera a todos. Buonasera Cla, ben rientrato. Fai quella domanda, vai già te la notte. A me l'hanno lavorata perché sono solamente in due. Se ci avevo due figli, avevo i figli, sai, la cosa mi avrebbero trovata. È la regione che paga, capito? Tutto lì. Poi l'altro modello che in pratica te non ti hanno fatto fare il C1, lì ti danno 300 euro ogni 6 mesi, dopo pigliate 2-3 volte, non di più. E poi l'altro modello C2 è quello per pagare le bollette, ma questo non c'è altro. Però quello che dalle in pratica, quello che ho detto poco fa, 300 euro di mese, perché c'è gente che c'ha la macchina, ti ho detto, che lavora in meno, si ritira 300 euro dalla regione, per un anno, rinnovabili, tutto lì, avanti qua, ripeti. Ehi, sono entrato, ciao Antonio, buonasera, e c'è anche Ossilandia, buonasera. No, non è ripreso ancora a lavoro, Antonio. Ciao Cla, no, assolutamente, cosa riprende? Assolutamente no. Ci devi entrare sabato, dovevamo fare anche la festa. La festa? E lui altro che festa è? E che festa era Cla? Evidentemente. Fatti ci vuole, non parole. Fatti, non parole. Capito? A parole siamo voi tutti. Infatti ci vogliono le parole. Chiudiamo il discorso che fosse meglio. Ah, ho capito. No, io credo che stavate voi organizzando la festa. No, scusami, no. No, non c'era arrivato. Eravamo pronti a fare la festa perché dovevi entrare sabato scorso a lavorare. Questo è quello che ho sentito io. Invece ti ho detto che ci vogliono fatti, non parole. E così Antonio? Sì, ma l'ho sempre detto, siccome ho bussato anche a politici e cose del genere, l'unica risposta che ne hanno dato è ti faccio sapere qualcosa, così cosa, e nessuno ha fatto un tubo. Se non mi sono in pratica, sono tornati in male pagina, ma quello non bisogna picchiare a nessuno. Se io la penso così, l'ho sempre pensata così, se uno ti propone un lavoro, ti faccio, fare il lavoro io, cosa vuol dire? Stai tranquillo, non ti conosce, ma può credere, perché non la fai mai. Il discorso è che uno ti trova e ti dice, cosa stai facendo? Non ti facciano niente, vieni con me, ti prendo in prova per una settimana, se mi va bene ti assumo. Solo così le cose vanno, no, come è successo con politici di quella genere, anche per dire gente che conoscevo, quando si mette la tacca non ti caga più nessuno, il discorso è quello lì. Io ci sono passato al centro pubblico, gli unici miei amici sono rimasti solo in quattro, contattimi, quattro solo contatti, tutti gli altri erano solamente per scoccare e basta, quando volevano il piacere e tonto andamento. Quando le metto la cacca, nessuno ti conosceva più. Anzi, di trovato ti saludava e passavano i diritti. Allora ho cominciato a eliminare uno a uno questa persona qui, perché non è vera amicizia, quella è falsa amicizia più che altro. Hai detto bene. Continua a dire, ci vogliono fatti in un parole. A me le persone parlano tanto, da poco mi piace. Avanti, Osirandia. Niente, non ho argomenti. Mi chiedo scusa, ma no, per il momento non ho argomenti. Niente, non ti capisco. Non si può ribadire su cose del genere, quindi. È giusto così, anche a me. Ti capisco, basta. Chiudiamo il discorso, parliamo di altro. Ma signora, come sta? Ah, sì? Oh, yeah. Fatto sorridere. E come stai? Secondo te? Cazzo, non sapevo cosa dirti. Sono caduto dalla palla della braccia. Perdoni, che cosa mi dica? Era giusto per farti una domanda, per sapere insomma se c'è stato un miglioramento, se sta meglio tutto qua. Poi, fai la cortesia, segna nel tuo libro. Senti, non so, io dottore sono malato, non so che domande fate, non sinceramente cosa di voto, cosa ti chiedo per carità di Dio, cosa ti chiedo, quando parte così la negatività e tutto diventa negativo, anche se qualcuno pensa che siano tutte rose e fiori e che si possa solo vivere di fantascienza. Non sono abituato io a vivere fantascienza. Io vivo nella realtà. Vivo la giornata come tutti i lavoratori, perché posso vantarmi di avere un lavoro e mi dispiace per chi non ce l'ha, questo sì. Però si vive la giornata, non si vive di fantasia, non si vive pensando che basta schioccare due dita e tutto funziona come deve funzionare. Ma per favore, finiamola di dire cazzate, no? Avanti con tu. E purtroppo è così, non ci possiamo fare un tubo, l'unica cosa è vantarsi qualche lavoro, o andare a accompagnare persone anziane che forse è meglio, o fargli da, per dire, gente che ha bisogno, persone anziane che hanno bisogno di fargli la spesa, si fa la spesa e ti fa riposare al limite di benzina e cose così. L'unica cosa che si può fare è quello. Gli anziani ce ne sono tanti in giro, o portarli le medicine, quello che è. Non si bisogna inventarsi qualche cosa. Oppure, io sono stato tentato di comprarmi le piante di tabacco, piantarle in campagna e mi faccio le sigarette io, così almeno mi vendo il tabacco già pronta, posso di pagarlo 3 euro, quanto costa 20 grammi, lo metto 1,50, così è 20 guadagno, netto. Ascolta, è una domanda, ma tu conosci un po' di paesi, cioè così, rispondimi sì o no, senza nessuna, conosci i paesi, per dire, 98 che, anzi dal 96 lavoravo, sì, poi dal 98 fino al 2000, al 2010 ho fatto sempre il mobiliere, sì, guidavo, ho fatto sempre l'autista, magazziniere, piazzavo i mobili, organizzavo le consegne e sistemavo l'esposizione, scaricavo, caricavo, preparavo gli ordini, sistemavo le resi, sì, era tutto un affare, capito? Non è che stavi solamente a consegnare i mobili e basta, hanno tutte le mansioni, qualsiasi cosa, imbiancare, qualsiasi cosa era da fare lì, non era solamente una sola mansione, ho fatto di tutto, sì, sì. Ok, va bene. Quanti minuti di bianco per me, riprendi conto me lo esci. Caspa, io già capito al volo cosa vuoi fare qua. Mi auguro che sia positivo. Almeno tranquillo anche la domani. Non è che se niente non è la dire di farma. Dove ci sono le farmaceutiche lì? Per consegnare in furgone medicinali, anche quelle consegne rapide, quello che è. Ma passato ci sei? Sì, sono passato lì, ho lasciato il curriculum, poi ho lasciato la TNT, poi l'ho lasciato da carenti trasporti e traslochi, poi l'ho portato a tutti i negozi di mobili, tutti quanti, dal più piccolo al più grande, città mercato città mercato e cosa hanno girato? Negozi di alimentari, quel che mi mancava, poi l'ho spedito fuori a Torino, il curriculum a Roma, perché conoscevo due persone, quindi in via fax, in modo se riuscivano a trovarmi qualcosa. Sì, ho girato tutti, anche nella Sperlari, ci sono i consigli della Sperlari lì a Bretagnetta, a Eurospin, a Cifata, tutti li ho girati, la verità li ho girati tutti quanti, no? Anche lì a Muros, una discarica, al caseificio dove ho lavorato, ma purtroppo c'era altra gente, no? Tutte le parti gli ho dati, guarda, veramente, tutti quanti, tutti i posti più possibili immaginabili, niente da fare, sempre la solita gloria, sempre le solite promesse, giustamente fanno un po' come fanno tutti, e se non conosci qualcuno è sempre il solito discorso. E' un conforama, ma dove sei? Conforama ci sono andato 10 volte e poi stamattina sono andato proprio nel magazzino, diciamo in questa dell'ATM, stamattina proprio, sono andato anche lì stamattina in questa ATM dove fanno le consegne, c'erano i furgoni, le macchine, tutto chiuso, citofonato, c'erano solamente macchine e gli uffici chiusi, non c'era nessuno, stamattina sono andato lì, anche lì sono andato stamattina, niente da fare neanche lì. Non c'è niente, se no dovevo venire a chiamare conforma, allora una volta c'era una cosa ormai, c'era un'agenzia di servizi, capito? Cercava persone per fare installazione, per fare mobili e cose del genere, su lui l'hanno cacciato via perché c'era una mania, c'aveva, e quindi c'era una padrona e normalmente lui dice l'unica cosa del nostro deposito dove dice gli cosa se il suo si era affittato a una per deposito auto non so di che marcia sia per quanto sto dicendo lui non so penso che vabbè lui già c'ha un paio 5-6 minuti c'ha della sua auto di c'ha la come si chiama la non mi ricordo se non ha Isa o la cazzuola la Silva c'ha la Silva per la tua volta c'ha due altri 3-4 negozi figurati sì poi sono andato anche alla Coapla poi avevo preso la cima per carità non servita a niente sono andato anche lì a chiedere alla Coapla lì ho lasciato il curriculum lo stesso Conforama e poi anche ci come si chiama Bricomet perché il lavoro lavoro di plico lo so fare benissimo, è lo stesso lavoro che abbiamo fatto nei negozi di mobili per anni, consigliare ai clienti il prodotto, spiegare giustamente che lavoro devono fare in casa, come consigliarli per dire certi prodotti, l'ho sempre fatto quel lavoro, magazziniere e tutto. Ho portato anche lì, però è sempre il solito discorso, ci vuole sempre qualcuno che sia abbastanza forte da darti questa spintarella. Vuoi un anno stupido, vabbè, meglio di niente, un anno, cioè in ogni nell'anno possono cambiare tantissime cose nella vita. Dunque nel frattempo se lavorichi quell'anno, poi lavorando continui sempre a cercare, quando sei alla fine che devi finire, o vuoi che poi vai in disoccupazione, va bene, altri due mesi vai avanti così, sai, un pochettino ti rincuora, ecco. Altra soluzione non ce n'è, no, ho provato di tutto, mi è venuto altre due punti, devo andare domani mattina, ci provo domani mattina, provo anche domani sera, prima faccio questa ricerca su internet e poi domani sera mi avvicino anche dopo pranzo in questo magazzino, vediamo un po', vedo che un po' di mezzi entrano e escono, sicuramente dei trasporti e cose varie, provo lì domani, altre due soluzioni ce li ho in mente, vediamo, vedo di sfruttarle e speriamo che riesca almeno qualche cosettina fuori. Aspetta che un caso si chiama, due P mi sembra che quella che c'è quella lieta, ce l'hai presente, in pratica di Gesù un gruppo giallo quello, adesso mi pronto in mente, quello per trasporti lo stesso. La 2P rimane per Danietta, mi sembra che è vicino dove sono le poste, se non mi ricordo male. No, quello che stavo pensando io, che mi è venuto in mente mentre stiamo parlando, è attaccata a Bricomen, anzi attaccato, all'entrata di Bricomen, non dalla 131 ma dall'altra parte, vedo questo grosso magazzino con mezzi che vanno e vengono, provo lì. Sinceramente non ho mai visto un'insegna, sicuramente qualcosa ci sarà lì, e provo a chiedergli a vedere, porto il curriculum e giustamente chiedo, però non so che magazzino sia e che merce trattino questi, provo lì a vedere cosa ne esce fuori. Poi quello che mi stai dicendo tu, dove c'è il deposito delle porte che dovrebbe risultare dietro lo spin, quello non ci ha fatto mai caso, la verità. Antonello, buoni. E a Giuseppe, c'è la 2P in pratica, che è il Gesù un gruppo giallo, quello non c'è più lo stesso, quello non c'è più, proprio, ce n'era lui e fratello che ci lavorava, solo che non mi ricordo il cognome adesso, ricordo la vita della 2P, però non mi ricordo il cognome, la verità si dica, che abita a Cosa Carica. Vabbè, avanti Giuseppe. Eia, quello di coso non di Mura, l'altro, il fratello di Umberto Mura, ero spinato, accanto c'è il panificio lì a Bretagneta. Provare lì che può darci che stiamo cercando anche lì qualche panificio, qualcun panettiere, vai a portare il pane lì, hai capito? Capito, sparito, forse non l'ha chiamato da 50. E dimmi, scusami, no, stavo salutando una persona. No, l'ho consegnato anche a lo sai dove, aspetta, lo sai dove il magazzino di Zinzi, ma qui lo chiamo Zinzi De Martis, che nell'incrocio per Alghero Bancani, anche lì l'avevo portato il curriculum lo stesso, però niente da fare, anche lì c'è un panificio, non ricordo come si chiama, Calvia forse è Calvia quello, e l'avevo portato anche lì lo stesso, per autista e cose varie, niente da fare. Esatto, Giuseppe, anche lì è andato, quindi... No, ma dove c'è l'Eurospin a Bretagneta, dove c'è il panificio attaccato all'Eurospin a Bretagneta, attaccato alle poste, lì c'è un panificio, è di Mura, e deve cercare, quando va, deve cercare di Umberto Mura, hai capito? Sì, ma questo dove c'è Eurospin, Eurospin di Bretagneta, dove c'è Cifada, quel padiglione verde, lucido, quel verde lucido, che ha aperto anche di domenica mattina e sera, lì stai dicendo? E lì, sto dicendo, e lì. Non l'ho mai visto lì il panificio. Io ci lavoravo in quella zona lì perché c'era il magazzino dove si scaricavano i mobili dell'ultimo lavoro che ho fatto, anzi dell'ultimo. Non l'ho mai visto lì il panificio lì. Panificio è, come si chiama? Quello è di Mura, Mura, panificio Mura, hai capito? Panificio Mura. Cerchi, quando sei in casa ti capita di andare lì, cerchi del signor Umberto Mura, hai capito? Mi dici che sei il nipote, cosa ti posso dire, il nipote del signor Pinna, quello che aveva il bar della stazione, hai capito? Provo anche lì domani, va bene. Vediamo un po', già il tempo poco per passare, dai, proviamo anche lì. Però stranamente quante volte ci sono passato io non l'ho mai visto. Che poi proprio per non sbagliare c'è proprio il deposito delle poste italiane, giusto? Ma devi scendere giù in quella discesa, dove c'è lo spin, attaccate allo spin, Antonello. Capito, attaccate allo spin, va bene. E poi hanno messo quei negozi, quella edicola, poi appena più avanti c'è l'autolavaggio, giusto? E proprio in quel piazzale lì. Lì, dentro lì c'è un autolavaggio pure lì. Dove c'è Rospin, tu devi andare dove c'è Rospin, di Predanieta. Trovi Rospin di Predanieta, a fianco c'è il panificio di Mura, hai capito? Io provo lì a vedere, va bene, ti ringrazio. Niente. Avanti Claudio, ci sei? Sì, sono qua, ero tre. Ok. Va bene. Ho ripreso un secondo solo, sto prendendo. Mi sto scrivendo un numero di telefono, lo prendo subito. E ya, vai Antonè. Ma guarda. Mi ha fatto tanta voglia di venire a fare. Purtroppo so. Però Antonello di Ossi, Ossilandia, fatti trovare lunedì mattina, però che sia, l'appuntamento, dopo che accompagni la bambina a scuola, ti fai trovare sotto a casa di Antonello Pomponio e poi la via Zara ti accompagno io, ti accompagniamo noi, capito? Va bene, non dovrei avere impegni. Va bene, tanto poi alla fine ci sentiamo, dai. Per esempio per non stare lì a farvi perdere tempo e a fare il bidone, ci sentiamo domenica sera, tanto bene o male già ci siamo in ascolto pure noi, dai, così ci organizziamo domenica e siamo sicuri, dai, di incontrarci, dai, facciamo così, mi sembra la cosa migliore, non mi piace di far aspettare le persone, facciamo così. Vabbè, poi al limite a parlare con qualche assistente sociale ci parlo io, capito? Che so già a chi mi devo rivolgere, capito? Va bene. Ma per voi è a Canotterra lì, se non mi ricordo male, ci sei, giusto? Sì, a Canotterra, come entri a destra, capito? Ci sono le assistenti sociali. Ma se c'è quella persona che mi ha fatto il corso a me, cerco di incrementare questo cazzo di lavoro, capito? Al limite se andano male, se riesco a fargli fare quella cosa che sto facendo io, si deve, non è molto, sono 3 ore al giorno, però ogni 10-15 giorni del mese sono 250 euro, non è molto, però per iniziare va bene. Sì, mi devo fare una famiglia, la vedete vecchia. Vabbè, non vedi quando l'abbiamo, Giuseppe? Domani è giovedì, aspetta, non c'ho il calendario adesso. Domani è giovedì, oggi è. Aspetta che guardo. Oggi non è 5, se non sbaglio. Sì, oggi è 5, quindi è. Oggi cos'è? Mercoledì mi pare. Eia, mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7, sabato 8. 8, 9 domenica, 10 lunedì. Allora, che va bene. Quindi domenica, lunedì, ci sono le situazioni, faccio quella domanda anch'io. Poi dopo c'è l'appuntamento 13, abbiamo salvato, quindi già mi va bene, così. Se poi c'è la stessa sociale buona, quella che dico io, mi chiedo se è libera, se non sta facendo niente, che facciamo l'amore con contro. E quando mai? E quando mai non ci cadi lì? Tanto c'era una buona, ma veramente buona, dove abbiamo salvato. Bella alta, attacchi alti, di quei pantacollati latti. E poi questi paraurti ti fa uscire il coso fuori, mamma mia, sempre ben piazzata, se la vedi, oioia. Tu puoi, io no. Ma che c'entra io posso... Io l'ho detto per sbaglio a questa, gli ho detto, speriamo che mi diano questa, almeno mi dà la mano, e io tocco l'altra. Che non ce la faccia la protesta ancora, contegno, contegno. Che barrato, l'altro è. Barrato. Ma il barrato è vita. Oh, via. Yeah. Però c'è solo buona anche Barbara, mio. O Giuseppe. Vabbè, a parte quelle due brutte che ci sono. Ma non c'entra la bellezza, Antonio, non c'entra la bellezza, l'importante è che si faccia la questione, hai capito, il furio per farti entrare in questo posto di lavoro. Poi, che sia bella, sia brutta, sia uno sgorbio, sia un polpo, cazzo, come cazzo vuoi, l'importante è che si dia questa possibilità di poter lavorare. Ah, quello sì, sono in gamba che ti vuole, che ci fa amicizia, qualche cosa riesce a togliere fuori. Perché di solito quando loro fanno quel lavoro lì, però le cose le fanno avere gli amici, fa capito. Quando è normale, a certo punto dicono la cosa impressionante. Vabbè che c'erano due che si assomigliavano parecchio, anche se non erano le pareti di nulla. Beh, questa la metto cotta, appeso per mi ha picchiato una contro l'altra. Un mezzo si è abbrigliato. Scappa. E infatti se l'ho fatto da quella volta lì ci sono i vigili notturni. A proposito dei vigili notturni, vi dovete chiedere se serve gente per fare il portieratto, perché quelli fanno portieratto, fanno. Lì bisognerebbe chiedere ai vigili notturni che ci sono dei vigili lavorando, se c'è qualche posto o altro a me. Ho già chiesto, hanno fatto tutti le vigilanze, compagnia bella, sono andata anche lì. Cappa, no, niente da fare, non c'è nulla, proprio in manco la mappa, non c'è niente. Rogia. Chi è questo? Daniele? Cappa, allora fatela tutti con voi, andate a comprare culo, fatela a Lucino, poi non tutti al processo, quali sono? Deposito che stiamo aspettando i signorini per fare gli ore, ma il tipo qua ci sono pezzi. Daniele. Dica. Ma tu il numero di cosa c'è, di chiesa? Di Alessandro, o di Mario Fino. E io di uno dell'altro che c'era domenica. No, c'è troppo sopra una rossa. Per ora ti serve il codice. Procurami il numero di fine di chiesa che mi servono. Sempre lì in deposito la adesso. Capo, c'è un sempre 4 mattine. Fammi, perché l'ho visto Alessandro l'altro giorno? Però siamo salutati e non... niente, devo chiedere una cosa. Penso che ho chiamato a una persona. E le furie a Roma. E rientra lunedì. Quindi lo vedo di persona e me ne parlo. Ma se mi procuri il numero di Fino o di Sandro, mi fa una cortesia che mi serve. Ah, vai, vuole essere... sono abituato a parlare quando sto pensando. Ho solo mosso due passi frutto uno dietro l'altro in 5 minuti. Le palle romperà mai, mi si girano solo le balle. Ok, questo che sto cercando è il responsabile di Daniele, quindi ho già capito. E siamo molto amici. Se c'è non me nega niente a me. Per diversi motivi. Senza essere né presuntuoso né essere nessuno, comunque. Lavoriamoci sopra. Va bene. Non so più cosa dire. Ho talmente palle girate che veramente forse più forte di me carattere, ma a volte sentire cazzo film di fantascienza mi si girano le balle. E prende un po'. Dove? A che cosa hai chiamato? A... come si chiama qua? Il più forte degli punti. Sì. Ci hai capito tu, no? Va bene. Settimana scorsa ha preso cazzo, porca troia l'altro. Porca troia l'altro, la settimana scorsa l'ha preso. Convinto. Mi sono convinto veramente, cazzo, che di farfalle ce n'è un bene al mondo, di tutti i colori. Solo farfalle. Cazzo, se mai dato il video, l'ho fatto a lui, perché ho fatto al volo che ho capito. Peccato. Però sarebbe abbastanza pulito. Meglio di niente, provvisoriamente andava anche bene, c'era tutto proprio per organizzarsi per qualche altra cosa. Andava bene, era Giuseppe. Sì, dimmi, Antonio. Appa, ah, io facciamo la lapina a Giuseppe, andiamo in qualche bar. Tocca la casa di due lapuri, se no la ammazziamo, diciamo. Con colpellino andiamo, con colpellino di piccolini. Sì, ma cosa cazzo fai? Uscicchio di sciampone. Ascolta, faccio delle lapide con le forbici adesso. Ma una cosa assurda siamo arrivati, cesso. Guarda, se facciamo la fine della vita, che già siamo a posto, già. Se continua questo casino che c'è, le banche sono banche, ci fanno... Se c'è qualche cosa viene come fatto viene. Tutti stanno chiudendo, ho visto ieri a Ballarò, c'è un poco di aziende che non riescono a vendere, ci vendere i prodotti che fanno più fuori. Mamma mia. Comunque, Claudio. Dimmi Giuseppe, che ha chiuso il Moccalo. Il Moccalo, il bar storico di Sassari, che sta in Piazza Castello. Ha chiuso il ristorante Pizzeria Castello. Allucinante. Allucinante. Comunque, scusa Giuseppe, comunque non pensare che sia come prima quella persona. Non può giocare più, non sono tutti assicurati, al stipendio paga base. Capito? No, non c'è problema. Quindi, non mi gira le balle che ho perso un treno veramente fatto. Cioè l'amicizia che ho io con quella persona, adesso comunque mi muovo col secondo che dove c'è Daniele, ho assunto la settimana scorsa alla DLS, mi si girano belle balle, cazzo, vabbè, mi si girano le balle perché ma poi ho già capito perché. Ok, dai, grazie. Metti giù la donna davanti. Avevo un 50% di dubbi, ma adesso mi ha detto che devo avere dubbi. Dimmi, Giuseppe. Comunque, non c'è niente di positivo a riguardo quella questione, che io ho consegnato anche quella roba a Domenico Tartanetto, il curriculum. Mi ha detto che anche sono in alto mare, capito? Dunque, ci siamo visti anche da poco, non è che... Ci siamo visti la settimana scorsa, un domenico, sono andato a prendere il caffè assieme e mi ha detto: Giuseppe, guarda, ti ho detto, come può essere un fratello? Non c'è niente, ci stanno, forse ci buttano pure a noi, perché deve subentrare la nuova ditta che prende quella, in mano quella azienda, capito? Sì, lo so io, sì. Infatti io adesso mi faccio il numero di telefono del direttore commerciale, del maniere, che è tutto il proprietario della nuova ditta che deve subentrare. E poi ti faccio sapere. Capito? Però ribadisco sempre che ci vogliono i fatti, ma la parola. Non è che bisogna lasciarle dietro la porta. Non aggiungo altro. E faccio un bel balle di rabbia, capito? Perché c'era una grande possibilità. Invece l'ho persa perché ero convinto che tutto stessi andando a gonfiare vele. Invece ti si gonfiano le balle invece del vele. L'unica cosa che ti voglio consigliare, Cla, poi giustamente uno è libero di fare quello che vuole, non c'è bisogno di arrivarti così tanto, poi alla fine non si risolve niente, anche giustamente c'è carattere e carattere, per carità, però non c'è bisogno di arrabbiarti così tanto e stare lì a fare il sangue cattivo, no? Per esperienza mia, tanto non ne vale la pena. Ti avvelena il sangue e fai male, e basta. Questo è un mio consiglio che ti voglio dare, perché se nessuno è perfetto e perché sa come lo sono io. Ognuno c'è milioni di difetti e pregi, però in questo caso no, un mio consiglio da parte tua è consiglio di incazzarti così tanto, la verità, no, non ne vale la pena, tanto no, non si risolve nulla, ecco, tutto lì. No, ma io sono molto, non lo so, me lo prendo molto a cuore, sinceramente parlando, e ci vuole un po' più di attenzione nell'esprimersi quando le cose sono così gravi e importanti soprattutto, capite? Uno si esprime quando è veramente sicuro di potersi esprimere. Nel momento in cui non c'è niente, perché niente c'è, sicuramente al 100% su questo non ci piove, allora si usa un atteggiamento diverso, questo è quello che faccio io, quando mi muovo come mi devo muovere io, però gli altri qui possono fare quello che le piace. Va bene, sì, Giuseppe, so tutto perché ne ho già parlato anch'io con Domenico tempo fa, però non ho voluto disturbare quello che è il vero responsabile di tutta la situazione, ma è come una figlia che è arrivata, ma adesso vedo di fare... No, ancora la cosa che mi gira sulle palle è che la prima telefonata che ho fatto con Antonio ha già capito che ho chiamato, l'ha preso la settimana scorsa, e tu mi capisci cosa vuol dire, no? Ho già capito, cioè la settimana scorsa che a me personalmente mi ha chiamato e mi ha detto: hai qualcuno da mettere, da sistemare? Io ho detto no. Momentaneamente no, perché non ero proprio, mi è uscito così spontaneo, pensando a tutto quello che tu sai, altrimenti la cosa era già fatta, e quello che mi gira le balle a me, non altro. Ho quello che cazzo che mi mette un calcio in culo e mi fa entrare, almeno, no, ho finito di soffrire e tutto quanto, capito? Io non devo... Il discorso è anche questo, Ocla. Un domani, mettono le corna, che se ne dovesse andare via mia madre, se dovesse morire mia madre, io da solo, cosa devo fare? Me lo spieghi. Giuseppe, cosa devi fare? Devi addrizzare i pantaloni e andare avanti come siamo andati tutti. Capito? Perché quando è morto mio padre avevo 3 mesi. E mia madre si è tolta la gonna, si è messo i pantaloni, Giuseppe. Ci ha fatto grandi, ci ha mandato a studiare, ci ha sposato tutti, grazie a Dio, non ci manca niente. Alti e bassi un po' per tutte le famiglie, oramai sono tutti così. Però non mi vanto né di essere ricco, né di avere questo, né di avere quell'altro. Lavoro come cane, porto lo stipendio a casa, la mia famiglia non manca niente. Io mi diverto nel mondo della radio. Quando esco in compagnia ho sempre fatto bella figura. La stessa cosa devi fare tu. Però non sono abituato a né a illudermi e né a illudere, capito? Quindi si va avanti come si deve andare, con la dignità che ci hanno insegnato i nostri genitori. E quando è necessario Giuseppe abbassare la testa e dire signor sì. Basta. Non ti posso consigliare altro, Giuseppe. E soprattutto avere un po' di fortuna. Un po' di fortuna di trovare qualcosa di buono, di trovare qualcosa che ti possa garantire anche a te un futuro, oggi e domani. Non ci sono altre parole, Giuseppe. Un periodo molto, molto triste per tutti. Per chi ce l'ha e per chi non ce l'ha. E su questo non ci piove, no? C'è chi non fa un cazzo dalla mattina alla sera e non c'è un cazzo. Nonostante si possa vantare o dire di avere punti alti e punti bassi, non c'è un cazzo per nessuno, Giuseppe. Sono tutte balle, capito? E più o meno chi aveva e ha c'è gli stessi problemi che c'è tu che non stai facendo un cazzo la mattina alla sera. Anzi, adesso fortunatamente hai questo impegno che ti permette di avere qualche lira in tasca, non tanta, ma giusto per comprarti le sigarette e per non fare brutte figure, ma per il resto non ci sono illusioni, Giuseppe. Eh beh, giustamente, è come hai detto tu, che non ci sono illusioni, io non mi faccio nessuna illusione. Guarda, io anzi dico questo, quando l'amico fa più del dovuto, io lo rispetto come un fratello, che ci sia o non ci sia, siamo amici, continueremo sempre a stare e essere amici, ci frequenteremo, tutto quanto, il discorso è quello che ti pare piace, però a me... Guarda, senza il lavoro sto male, capito? Sai dove dire, sto male. Io no, non è perché devo dire che adesso mi hanno dato questa cosa qua, questi 3 mesi di prola di questo di specie di lavoro, però 3 mesi non so niente, capito? Non so niente, non ti copri neanche manco la luce della casa, capito? Quando arriva le bollette della luce. E loro mi stanno venendo incontro solo per questa cosa qua, non per il resto, hai capito? Ecco, magistrato, lo so Giuseppe, lo so. Però l'unica cosa che ti posso dire è che bisogna avere fiducia, no, fiducia in se stessi, non fiducia negli altri, perché gli altri con la bocca e con le parole sono bravi, capito? Sono molto bravi con la bocca, però infatti non c'è niente, perché il cerchio è talmente chiuso, talmente ristretto, che qualsiasi cosa tu vai a chiedere, anche a titolo di amicizia, non c'è riscontro, capito? Perché te lo posso dire per esperienza, non c'è nessun riscontro, vero? Quindi quando un Claudio dice a un Sandro, lo prendi a lavorare a Giuseppe, che problema c'è? E tu cosa mi dai? Questo è il mio uscire fissi, più uscire su quanto. Io domani mattina ci passo personalmente e chiedo se per caso ha bisogno di qualcuno. E non ti prometto niente, Antonè, io ci provo, soltanto questo. È rientrato a 30 minuti, si è sposato un secondo per la bambina. Si è rientrato subito, sa. Però stavo infartando, sa, poco fa, E mi sento ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ogni tanto. Stavo strappando. Ancora? Adesso no. Ho capito. Non lo so, probabile pure che... Cosa potrebbe essere? Forse il mic, magari qualcosa nel mic, Adesso sei a posto, lascia tutto così, non toccare niente. Sembrava che fossi troppo carico di applicazione e ti avessi dovuto così da uscendo. Adesso va bene, va benissimo, non preoccuparti. Radio perfetta 5 amplificata. Stereo sembra che sia. Sto usando il 757, dai, Claudio già lo sa con che cosa non sto abbinando. E niente, che dire, tempi da lupi, questi sono tempi da lupi, e quindi Claudio invece forse il telefono l'ho chiamato, senz'altro. Giuseppe. Eia. Ciao Sandro, buonasera. Eia. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te. Tempi duri sono, Sandri, tempi duri. Bisogna, io dico questo, uno, quando il lavoro ce l'ha, deve mantenerselo bello stretto e non avere mai problemi con nessuno, perché è la cosa più odiosa che ci sia nel mondo, capito? Bisogna andare d'accordo con tutti, anche se quella persona ti sta sui, scusate la frase, ti sta sui coglioni, però devi abbassare la testa e andare per la strada tua. Tu fai il tuo e io faccio il mio, e così mi hanno imparato a me. Quando uno va, ti senti in grado, ci sei parecchi anni e quella cosa là, però il lavoro è sempre quello. Più ce n'è e meglio è, capito, per tutti. Ok Giuseppe, allora, sappiamo benissimo che la Costituzione italiana... Aspetta un po'. Sì. La Costituzione italiana prevede che il lavoro è un diritto del cittadino, capito? È un diritto del cittadino. Però al giorno d'oggi il diritto del cittadino è essere trapassato e pagare. Giustamente, Sandri, come dici tu. Come hai detto tu, sì, noi dobbiamo pagare tutte quante le tasse, quello che ci impone lo Stato, sì, ma lo Stato a noi, forse il lavoro, grazie a loro, non abbiamo, hai capito? Il discorso è anche quello. Se lo Stato, se era un posto dove chi ci governa, se era passato un po' le tasse e tutto quanto, o gli stipendi che ci ritirano loro, tutta questa preoccupazione non c'era mai stata, capito? Tutto questo coso di disoccupazione, di disoccupati che siamo in Italia e tutto quanto, non c'era, hai capito? Lo so, Antonio, Giuseppe, lo so, tu hai detto delle sacrosante parole, capito? Hai detto delle sacrosante parole, però purtroppo non è così, hai visto quella casa che è crollata, dice che c'erano degli operai che lavoravano a 4 dritta in un'altra adesso, l'ultima che è scesa, l'ultima che ho saputo stasera, stasera, c'era un'impresa giù a Alghero, sente la cena. Questi due sono andati a lavorare giù a Alghero, un'impresa di cosa? Beh, senza assicurazione, senza niente, li stavano dando a 2 euro, a 2 euro e 50 centesimi al giorno e si stavano facendo la bellezza di 13 ore di lavoro, hai capito? E loro, e queste qua si sono abbassati la testa e stanno andando piano piano, hai capito? Piano piano stanno andando, stanno viaggiando. Uno mette la macchina un giorno uno, un giorno l'altro, scendo a Alghero, questa mi hanno confermato stasera che sono degli amici miei di Alghero, che scendono da Sassi di Alghero, degli amici, hai capito? Mi hanno confermato stasera, mi hanno telefonato e mi hanno detto, dice Giuseppe, tu sei disposto a fare squadra con noi? Io a quel prezzo, scusando la frase, non ci sto, perché non mi conviene, prima di tutto perché ci rimetto in benzina, soprattutto, poi non ti assicurano, se in caso ti fai male non ti paga nessuno, un domani quando vai a ritirare la pensione non c'è un cazzo, hai capito? È allucinante. No, non è accettabile, non è accettabile. Logicamente queste persone stanno affrontando questa situazione perché evidentemente hanno bisogno, avranno famiglia da andare avanti e avranno le loro esigenze, però in questo caso si tratta di sfruttare l'operaio e evidentemente non ci sono controlli adeguati, perché se ci fossero stati controlli adeguati queste cose non verrebbero fuori. Appunto perciò, perché non ci sono i controlli, vanno a fare quadratori, hai capito? Preferiscono prendere queste persone di fuori, rumeni, cecoslovacchi, eccetera, che le danno neanche 5 euro al giorno, 5 euro al giorno, io farò 5 euro, e si fanno cazzo la bellezza, quando io, e si fanno la bellezza di cazzo di 16-17 ore, hai capito, sa? Quando io lavoravo al Lido di Alghero, che Claudio conosce benissimo, chi è quello sfruttatore, questi rumeni iniziavano la mattina alle 6:30, andavano la notte alle 11:30 se ne andavano a coricare. O Sandro, sai cosa vuol dire? Lo so, ne ho sentito, ne ho viste di queste situazioni qua. Purtroppo perché non ci sono i controlli adeguati, capisci? Se i controlli ci sono, cercano di passare alla larga, e se cercano di passare alla larga evidentemente c'è qualcosa che puzza, insomma, diciamo che il rumeno, il cecoslovacco, il croato, il senegalese ha diritto anche lui di lavorare, e allora se ha diritto di lavorare mettilo alle stesse condizioni dell'italiano, assicuralo, mettilo in condizione di lavorare, capito? In quel caso lo sfruttano, questa gente logicamente ha bisogno di lavorare e si sottomette, però i controlli non ci sono, capito? Non ci sono. No, per dirti un'altra, adesso no, io ho fatto 15 giorni lavorativi, da giugno sino a metà giugno, 15 giorni lavorativi. A 40 euro a giornata sono la bellezza di 560 euro, siete la cena. A me mi ha liquidato con 400 euro, con 400 euro, e 160 euro non me ne ha dato, capito? Io quando sono sceso giù, è passata la pattuglia dei carabinieri, si sono fermati e hanno fatto la relazione. Adesso io a ottobre, a metà di ottobre, c'ho il processo, è capito, contro questa persona. Per questo 160 euro cagate che mi doveva dare, io adesso questo qua gliene faccio uscire anche l'ultimo centesimo di quanti anni ho fatto le stagioni lì dentro, che sono 5 anni che ho fatto la stagione lì dentro e non mi ha mai assicurato. Mi sono fatto male, sono andato al pronto soccorso, mi hanno dato 10 giorni di malattia, e non le ho mai fatto, non ne ho mai fatto un cazzo, hai capito? Però questa volta adesso lui ne paga tutte quante le sino all'ultimo centesimo, me la faccio studiare sino all'ultimo centesimo. Sì, ma Giuseppe, tu logicamente se hai reagito in questo modo, hai reagito per ottenere ciò che ti spetta, capito? Ciò che ti spetta. Tu non sei andato lì a cercare l'impossibile, perché tu sei andato a farti una tua giornata, tu ti sei fatto male e non ti è stata riconosciuta, diciamo, il dovuto, insomma, è questa gente va fatta, bisogna farmi capire che si assume un operaio, tu devi assicurare, lo devi pagare. Io vado avanti perché ho messo tutto quanto a mano, già prima di tutto c'è già una denuncia già partita dai carabinieri, già una è quella, poi c'è un'altra denuncia che è partita già dalla mia avvocatrice, hai capito? Per sfruttamento di non avermi dato tutti i contributi, quello. Poi c'è un'altra denuncia perché c'è un'altra persona che ha lavorato lo stesso nel periodo che ho lavorato io e non l'ha mai assicurato, si è fatto male anche lui e no, a lui dato si è troncato le gambe e gli hanno dato 3 mesi di malattia. E io non ho capito come attenzione di risolvere la questione. Giuseppe, non lo so, logicamente so solo che io al suo posto, diciamo, non mi sarei voluto, perché trovarsi in quella situazione lì, insomma, non è tanto delicata. Evidentemente è un personaggio che non gliene frega niente, è come va a fare, per dire. E lo so, ma comunque, ripeto, bisogna stringere i denti fino a un certo punto. Bravo, dai, chi è entrato sul canale? Dovrebbe essere Claudio, Alessio Pomponio e Antonello Di Rossi. Io ho fatto causa del principale, mi aveva 12 anni di lavoro. Quando ho fatto il fuori da casa mi sono fatti a ridere. Mi aveva dato 86.500 euro. Non ho capito, Antonio, 86.000? No, 86.000, sì, se non mi rendi io. 80... 12 anni di lavoro mi aveva dato. 86.000 euro, sì. Ce n'è di queste storie, guarda, ce n'è perché è una vergogna, non si può andare a prendere la gente in lurdo. dopo la bomba di gente, perché sanno che c'è gente che ha bisogno e ti incappettano così. Ti prendono il nero, come argomento quello denunci, cambiano subito il codo, si accorse interessarsi tutta la roba a loro, si interessano alla moglie o alla figlia. E se con la testa non vuole, non toccano più niente. E invece adesso magari lui ci sono cambiati, quindi se non paga la persona che è stata denunciata, pagano per il figlio di tutti. Sì, sì, sì, qualcosina di buono diciamo che hanno provato Antone, quello sì. Però diciamo no, i controlli, mancano i controlli. Io sono sicuro che se ci fossero stati dei controlli più adeguati, allora a te ti becco con un operaio senza assicurare, ok, perfetto. Cosa sei? Un imprenditore, un impresario, ok, perfetto. Tu intanto hai finito di lavorare per un anno, ti tolgo dall'iscrizione e ti tolgo tutto, più la penale. Rimani fermo per un anno, se vuoi vai fermo a Novale, solo che reagire in questo modo sarebbe troppo. Già li pagano i controlli parecchie volte, ho preoccupato qualche ditta di cantieri molto grossa, paga le tangenti perché succede sempre così. E i controlli non ne fanno per niente, purtroppo. E allora se lo faccio, sai quando invece a sassare il nero. E una gelata venne. C'è anche gente che fa due lavori, d'altronde. E purtroppo è così. C'è chi fa l'infermiere che se va e poi si fa lavoro in nero tipo un attore, cosa vuol dire, pure un elettricista, poi c'è quello che va che in pensione a installare palambole, ormai mangia Sassari. Se non cambiamo le cose, poi io lì. Ehi, già lo so, c'è gente per dire che lavora, non so, in qualche posto pubblico, che per dire dalle 6 alle 2, e poi magari c'è l'altra tutto il pomeriggio libero e magari si arrangia diciamo a fare qualche altro lavoretto, ma io adesso conoscevo una persona che lavora lì all'ANAS, per dire, da tantissimo tempo, e il capitano ho visto, ho detto cambia la macchina, ma ho detto cazzo lavora all'ANAS, cazzo ma all'ANAS tutti questi soldi guadagnano, e poi in effetti lui cosa faceva anche l'idraulico, quindi prendeva lavoretti di idraulica, si aveva fatto una scuoletta di idraulica, e lui si lavorava nel suo lavoro normalmente, poi c'era questa scuoletta di idraulica e insomma si è fatto anche una bella casettina e tutto quanto. All'ultimo evidentemente la questione faceva puzza, perché faceva troppa puzza, l'hanno un attimino pedinato, l'hanno poco provato, l'hanno fatto, ha saltato un posto in cui lui lavorava e poi l'hanno craccato anche facendo lavori di idraulica e così via, insomma ci ha rimesso sangue e sale. Glielo credo, se non si cambia sempre la macchina e poi la pilota adesso controlla, fa i controlli incrociati, non è più come prima, no? Prima ti potevi salvare, adesso non ti salvi più. Prima è il culo che controlla adesso chi fa il tecnico in meno per dire vai a installare palando e deve venire da dove guadagna tutti questi soldi, poi lo pedinano, non si dà quello che non meno, va a casa non più avanti e si può installare la lampada e buttizzo, capito? Il discorso è quello di io, l'antenna non la sto più installando, sono da un anno che non installo più niente per questo motivo qui, perché il nero è un casino, non si può più fare, arrivi magari che ti chiama qualcuno e magari ti chiamano anche finanziario e bottizzo, e mi faccio la galera per niente, 30, 40, 50 euro per dire. lo so, purtroppo uno cerca di, diciamo, non si accontenta mai, capito? Non si accontenta mai perché cerca sempre di, non le bastano 10, non le bastano 20, non le bastano 50, non le bastano 100, e quindi cerca sempre di fare sempre di più. E vabbè, comunque, cosa deve dire? Vabbè, si cerca di stringere i denti o può andare avanti, così. Vediamo un po'. Antonello Silandia, sei rientrato? No, Antonello Silandia, ancora niente. Va bene. Ok, dai, signori, io vi devo lasciare, che devo portare il signorino a fare la passeggiata e così via. Ciao Antonello. Ciao Giuseppe, ci risentiamo tutte le prossime, dai. Ciao, ci sentiamo domani al limite. Salutoni, buon colito e buon tutto. Claudio, sei rientrato? Sì, sono qua, stavo memorizzando una radio, Sandro, parole sante che però molta gente deve mettere in atto, perché parlare di lavoro in questo periodo non è una cosa. Si può parlare come parliamo normalmente, di andare da lei, quindi, perché pensa che tutto sia facile, tutto sia dovuto, non è esattamente così. Ripeto questi discorsi a livello di fanfaronaggine, come si dice a Sassari, quindi bisogna stare molto attenti quando si parla di queste cose. Bisogna essere molto, molto sicuri e molto precisi per poter rispondere sì. Tutto qua. Vabbè. Ciao Sandri, ci aggiorniamo domani. Se hai novità su quel microfono fammi sapere. Non ci stanno problemi. Sono qua a casa. Ok, avanti. Ciao Sandro, buon 144, buona nuova parete, salutami il cuore A e ce la ricettiamo tutte le prossime, dai. Comunque Sandri, il discorso è sempre quello, uno quando fa questa cosa cerca di tirare la barca sin quando può, poi fonda e rimane a galla, il discorso è quello. Ok. Ok, dai, va bene. Comunque, se sentite Antonio Lussilandia, accennateglielo. Io domani mattina provo un attimino lì a passarsi a chiedersi un attimino se nel caso per dire dovesse aver bisogno. Poi magari domani giornata, se nel caso la questione è positiva o così via, domani giornata per radio. Vediamo un po' tutto, se lo sentite comunicateglielo. Buonanotte a tutti. Ciao Sandro, buonanotte. Ciao Sandro, che è possibile. Avanti Luca. Vai tu Luca, Luca Dottale. Via, per carità. Vedi Claudio, per amici, cosa possiamo fare? È l'aiuto che possiamo fare, hai capito? Sì, ma io sono d'accordo ragazzi, non è che per carità di Dio, ognuno può esprimersi in maniera molto, molto equa, in maniera molto sicura, e quindi io do atto di cose viste e sentite, che ripeto mi hanno fatto un po' girare le balle, tutto qua. Non avevo dubbi su questo, sicuramente non avevo dubbi, però sono voluto rimanere un po' nei miei passi. non c'è problema, domenica ci sentiamo e ne parleremo verticale, dai, senza avere problemi, fare sapere gli affari nostri in frequenza, dai. Non c'è problema, non c'è problema, ti farò capire. Via, per carità, avanti a Tonello, Pomponia, anzi, Mariuccia. Già va bene, Mariuccia è poi in casa per il momento. Sì, poi quel giorno si è imbarcato a Tonello qua. La mattina, già era un giro, adesso ricordava puzzeroso. Rispetto Antonio, non ti conoscessi, ma mi sembra che di tutti quelli che siamo rimasti in radio, l'unico che ti può conoscere bene c'è lui, io. Quindi già ci siamo capiti al volo, già sei abbastanza attento. Eppure ti vogliamo sogliare, so. Ti conosciamo 20 anni in più, abbiamo sempre coabitato tipo fidanzati sempre, ci siamo trasferiti assieme e siamo ritrovati assieme di a carburarsi. Quindi ci siamo separati d'accordo, grazie di anche da vicini. Giuseppe già lo sa, come me ce ne sono rimasti pochi. Lo puoi dire forte, Antonio, lo puoi dire forte, Ricky CB, siamo rimasti veramente pochi, ma pochi veramente, li puoi contare sulle punte della ditta, hai capito? Pochi, ma pochi, però quei pochi sono sempre belli filati, capito? Che si fanno i cazzi loro e non vanno a sperperare le cose che si dicono in frequenza e in privato, capito? A me non mi hai mai sentito dire di cose che a me o Claudio o Antonello o chi sia di andare a raccontare i cazzi di loro. A me non me ne è mai fregato niente, perché c'è il proverbio, chi si fa i cazzi suoi campa sempre 100 anni. E gli obbligo. Ma no, io tanto tempo fa che altro dire solo il corpo. Ero forse uno dei pochi che c'aveva il canale sempre pieno su 14 e eravamo tutti filati, capito? Uscivamo tutti i giorni assieme, ci vedevamo, facevamo così insieme al baracchino. E quelli che entravano nuovi se sgallavano poco a poco, erano eliminati subito, li facevamo fuggire immediatamente, non duravano più una settimana, Giuseppe. Figurati. E andavamo tutti quanti d'accordo, eravamo tutti vicini, io, Claudio, Angelo Versino, Andrea addirittura si metteva sulla russa a litigare e usciva a forte, non avevamo mai bisticciato tra noi, siamo due mai, andavamo sempre d'accordo. Poi c'era un'altra volta, vabbè, da quello con Giannina, e una volta che Claudio si era conosciuta e poi sono andati tranquillamente, stavamo d'accordo e ci siamo divertiti, però si stava veramente bene. Figurati che un giorno per me, così c'era restato ancora il giorno che stava rientrando, mi ricordo se era da Nuvolo che mi ha accompagnato un cliente, era mezzo gutto, e così per adesso per lo sto fatto tuo, questo bimbo che non ti prende, dove ti piccio, cazzo, dove vieni, non ci sono problemi, è stato detto in televisione. Come ho fatto, dove sei rimasto? Dice solo in Italia, in città del Vanno. Come sono scendendo? Come sono sceso giù mi sono provato. Andrea e Angelo del Pino, gli ho fatto cosa ci ha fatto lui qua? Cioè, pensavo che dovesse picchiare, ma chi lui? E tu vai non c'è il Pino, non lo vedi. Questo era appuso, che il figura che si è portato di Borretto, dice, no, Andrea, già mi conosce come sono fatto, Alessandro, gli diceva. E io lo so, è arrivata la scorta, ha detto, ma come sapevo? Siamo tornati lì, siamo andati, figurati, siamo entrati al bar di Carlo, in via Zendo, che stampava sopra i CB. Figura di tu, stampava sopra i CB. Esatto, beh, giustamente, lo vediamo. così che tempi, caro Antonello, e adesso se ricordiamo i vecchi tempi a quest'ora non eravamo in questa merda, capito? In questo mondo di merda, perché siamo un mondo di merda, stiamo navigando nel mondo della merda, hai capito? Sì, beh, si è cambiato tutto, diciamo, ormai i tempi sono cambiati, lavoro, il primo lavoro c'era, si stava anche bene, c'era anche parecchio, adesso ormai con tutte queste crisi strane e ci è andato tutto, da quando c'è quest'euro, boh, abbiamo avuto un culo, tutti in parte abbiamo avuto un culo purtroppo. Hanno avuto quest'euro e adesso erano a 1-1, chi è in difficoltà stanno pigliando mezzo la cacca. Poi ci sono quelli che si arricchiscono con le disgrazie. Gli altri, i più ricchi rimangono sempre ricchi, e i più poveri rimangono sempre ancora più poveri. Il discorso è quello. Tu mi devi spiegare una cosa, Antonio, mi devi spiegare una cosa. Ma perché negli altri stati, Londra, in Australia, in Germania, a Monaco, Svizzera e quella cosa là, tutta questa cosa qua non la sentono, me lo spieghi? Sì, guarda che c'è anche crisi anche lì mio, in Germania si comincia a sentire la crisi, Giuseppe, e in Inghilterra è ancora peggio, che ormai la famiglia sta andando male, capito? Quindi tutti siamo in mezzo alla cacca. Purtroppo, il problema è che i ricchi rimangono sempre ricchi e poveri rimangono ancora più poveri, il discorso è quello lì. Non ci può fare proprio un dubbio, il lavoro mai scarseggia, le aziende stanno fallendo, licenziando, quindi i lavoratori sono quelli che i cinesi stanno diventando numerari, a poco verrà che si comprano anche le aziende italiane. Hai capito? Perché quelli sono abituati a lavorare 12 ore al giorno e non sono pagati. Capito? Noi ci fanno un sacco di soldi, sono queste aziende grosse cinesi che prendono personale che non pagano e quindi loro li sfruttano. E si possono permettere di comprare anche il ferrare alla facciatura via. Capito? Qualcuno di tutte queste quelle di cose che avvengono adesso, che sono tutte cinesi, addirittura le fabbriche americane fanno fare tutto in Cina, figurati, dopo di che l'assemblaggio lo fanno lì e lo dipendono, quindi ci guadagnano tutto senza spendere niente. Beh, giustamente la roba tutto quanto male in Cina, e cinesi si deve guadagnare, capito? Più ne vendi e più c'è guadagno, il discorso è quello. Avanti Claudio, se ci sei, se no. Ci sono. Mi sto ascoltando, sto cercando un microfono, certo, come c'è qua dentro. Non lo trovo più, porca troia, vado in fare. Bagaccia di più o meno, certo. Dove? Vado in una mano, vado. Vabbè, che c'è un giro qua, ragazzo, bravo. È così, Giuseppe, ma capito, è così. Ma adesso no, non è perché io voglio riprendere le cose, no. Tu adesso, c'è mio cognato, il marito di mia sorella, della piccola, è cuoco, però cuoco che dà gli ordini e tutto quanto, primo, come si dice, metro. Lui dà gli ordini a tutti quanti, anche quelli della sala, tutte qua, gli ordini li dà lui, tipo un datore di lavoro, hai capito? Lui può assumere, può licenziare, tutto, però lui a casa, quando si ritira dal impegno, si porta a casa e torna ai 9.000, hai capito? Che adesso non so cosa c'è in Austria, se ci sono le sterline oppure cosa, o i dollari, cosa, non ho capito cosa c'è lì. Cosa c'è secondo te? Cosa c'è? La sterlina oppure o i dollari? In Australia. Sinceramente non so, ma qua non se ne fa un problema di denaro. sapere che tutto il mondo è paese e il denaro non stia girando in Italia, ma stia girando nelle varie parti del mondo. Questo è un grande problema per la Sardegna. Quindi si può andare veramente a fondo con questo sistema di navigazione a livello commerciale, si può andare veramente a fondo, perché il problema è quello, capito? Tutto lì. Va bene, ripeni a me, sono qua comunque io, sto cercando di capire una radio, che non ho mai accesso, non ho capito un cazzo, veramente, devo essere sincero, perché non riesco a capire. Mette il toni, e il tono se ne va a cagare, non mette in funzione, sette, vediamo, schifo, e lo sette, le guarda di nonno, da, e se ne va a punta di manico, senta da, se ne va con la mano della bocca, cose un po' ugue, poi sono i recettori sono un memorizio purtroppo non entra, dove si fa la selezione, vettori, poi ci sarà 10, 19, non so com'è. Allora si va a 48.5. Sono a 1.600 e quindi non mi tornavo al ponte. fortuna tua, là. Ti auguro un buon 144, un buon trapacco per domani. Quando lo fai, ce la risentiamo su le prossime, là. Ciao Luca, buonanotte. Veglia, disattenti la PS e mezza, perché la PS e mezza sta entrando al comune. No, mi atto alle 6 e mezza, però sai, 6 e mezza. Non è lui. Le 7, a volte io arrivo anche un po' prima, capito? Devo entrare alle 9, però io lì arrivo alle 8, 8 e quarto, dipende dal traffico, capito? Però meglio che entro prima, perché il lavoro di domani è un po' massacrante, hai capito? Giuseppe, dimmi. Se ci devi entrare in nuovi e vai in comune all'otto, allora brava in terra, No, devo massacrare un calcio. Il lavoro che ho iniziato, di fare questa cosa qua con la forbice da portare, capito? Devo portare delle piante che sono lì nel giardino e devo tagliare tutti gli alberi che ci sono, le cose di sotto, capito? E devo un po', e me ne mancano la bellezza di ancora 7 alberi. Come li tagli i peli? La forbice. Sì, quello da portare. E devo tagliare questi, come si chiama? I rami che crescono sotto, capito? Come mi tagli i rami che mi crescono sotto? A te taglio cazzo, i peli dei coglioni. Non prego la provincia a portare, viene bene a vedere i capelli, capito? Altrimenti me li fai a culo di scimmia. Va bene, dai, di nuovo, dai, ciao, buonanotte. Ciao Giuseppe, ciao, buonanotte, stanno bene, grazie alla compagnia. Anche ieri abbiamo scherzato, fatto, almeno siamo in armonia, che come dobbiamo fare i mummi e i bredi. Kappa, ciao Antonè, e tu, mi raccomando, abbracciati forte con Simona, stringi la forte al cinto. Ha già fatto pure il piccolo lì, sarà già caduto in catalessia. Alessio. Alessio è caduto lui. Già, come dice in gocca, cazzo, il culo, per trovare il braccolo, si muove, lo volevo letto. No, voglia. Adesso lì è ancora 10 minuti. Vabbè, non conosci un già disegnato un letto. Io sono stato lo stesso il clavo. Oh, diritto. Porco sta costa, perché poi sono le mie fregame, mi riposo il pomeriggio, no? Tipo un paio d'ore. E durante la notte non c'è, quando sono sul tardi. E apri un occhio di, cioè, quasi già appena ti sei addormentato e ti riuscirà. Quindi in mezzo arrivi subito, È una buona mia. Chi lo dice? Io esco alle 7, perché alle 7 e mezza devo timbrare. Quindi mi alzo tutte le mattine alle 6 per farmi luce, per prepararmi, eccetera. Esco tutte le mattine alle 6 e poi mi faccio la bella di 200 km quasi giornalieri, tutti i giorni, in macchina, vai e vieni. Domani poi tra l'altro sono sempre la furgonetta, l'ho portata a fare il tagliando, me la vanno domani sera. Quindi vanno a mangiare, me la abito per i gatti miei, tanto sono con la mia macchina incognito, non ho scritte, non ho niente. Abbiamo adatto la botta a nulli, mi piglio un caffè, mi leggo il giornale, fumo una sigaretta, poi abbiamo adatto la botta a Sirini, e fatto tutte le tappe. Quando arrivo a Sassari mi dà di la maglia rosa. No, vabbè, lo io. Sono buon tasato, cazzo, mamma mia. Vabbè, questi due facevi mi sanghizzo. Io mi alzo le 6 e mezza, tra l'altro mi metto questi, mi mettermi la panella a posta a frigo, tre cose. Allora 7 e un quarto, 7 e 20, vado lì al batallello, al bar piccolino che c'ha il batallello. E poi vengo lì a prendermi e scendiamo. E purtroppo tirate così presto perché devi essere alle 8 là, ripartiamo 8 da un quarto, tra fare tutto vicino a accompagnare gli altri. aspettiamo lì in cantiere. E va a casa. Già va bene, già va bene. Già va bene, già va bene. Già per esempio già qui, sei compreso, signori. Vuol dire che piace entrare presto con voi. Oh, anch'io, La domenica quando sono a riposo, me ne salgo di Piazza Vessini e vado presto. A 8:30, prendo il caffè, andrò quel giornale, più magari me ne rientro a casa. Poi riesco, però non ci so stare perché sono abituato a alzarmi presto, quindi il discorso è così. Vabbè, sono lì in culo. Ok, Lu, ci sentiamo domani, dai. Stammi bene, buonanotte, le mando ancora qua in Corixi se dovesse entrare qualcuno. Quando sto analizzando sta radio, faccio un monitor più presto, ma a parte, se non è monitorato è presto, ma manca del mio valore di questo. No, non ho qualcosina, ce n'è andare, del tuo valore non avrei un verso. Ho qualcosina, ce n'è andare, va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo lunedì, vai, a fanculo, ci sentiamo domani. Sì, a Clara, buonanotte, dai. Sto cercando una cosa su internet, se la trovo. Internet, su web, boh, se vediamo. Allora, domani, ciao. E chi vuole che ci sia? L'ultimo dei figli. L'ultimo dei figli. Buonasera, ma non è che io stavo... Thank you. un birbanda, lo uso solo in WKF perché in WKF uso il 271 della Incom, sempre quello base. Vabbè, mi piace di più. Ho staccato il 27-25 e non è bello, non avevo abbastanza interessante, ma esteticamente mi piace. E ho inserito il 32-10 vecchia Tigre, vecchia Pantera della Incom. Molto interessante anche quello. Ultima recezione, ultima trasmissione, dove ho inserito l'SM20 e lo usiamo così, si va via le luci. E allora, per me è tutto.